amore, arbitri del mio cuore, un solo istante permettete che io finga. Qui l'infedel si colpa di mie giuste vendette almeno il frutto. Asteria, vi turbate? E che? Temete portarvi forse me presente un trono per cui fu così pronto il vostro voto? Piano, Andronico, piano! Non mi guida ambizione, uomo dal trono, farò vedere! Ma Asteria, ove trascorre? Voi mi spingeste al sollo, il dissi, il tipo! E se voi non aveste cuore o forza per dichiararvi contro il mio nemico, a odiarlo nemmeno io son tenuta. Quando ciò sia, protesterò altamente contro le chieste nozze, mi griderò nemico del Talernon, rifiuterò l'impero, al fin morrò, se il morir mio si prova. Più tempo, il Tamerlan mi chiama.